Smart City, voci e luoghi dell'innovazione. Buonasera da Maurizio Melis. Come si aggiusta una città? Una delle idee ricorrenti quando si parla di Smart City è una sorta di cruscotto intelligente, una centrale presso la quale affluiscono tutte le informazioni sullo stato di funzionamento di una città e anche le segnalazioni di eventuali problemi, dalla rottura di un tubo dell'acqua al sacchetto di immondizia abbandonato, naturalmente con l'obiettivo di intervenire rapidamente a risolvere il problema. Ci sono in realtà diverse esperienze di questo tipo e ci hanno insegnato una cosa: raccogliere le informazioni è la parte facile. Oggi ci sono milioni di modi per farlo. Il problema è gestire le segnalazioni e dare una risposta rapida, appunto. L'Expo, da questo punto di vista, è stato un esempio di successo, insomma, di come questo approccio possa funzionare, a patto di sposare alcune semplici regole che ci facciamo spiegare da Luigi Osmetti, che è responsabile del Program Management di Expo 2015 e quindi responsabile della ormai famosa, direi, centrale di comando e controllo, una di quelle sale da film di fantascienza con metri e metri quadri di schermi, da cui l'Expo è stato gestito giorno dopo giorno. Buonasera Osmetti. Buonasera. Allora, intanto, pensando appunto al tema della manutenzione e gestione anche fisica delle città, l'Expo è stata, lo abbiamo detto tante volte, una piccola, anzi media città, ecco, voi esattamente di che cosa vi occupavate, per capire bene? Allora, la centrale di comando e controllo aveva sostanzialmente un ruolo di coordinamento di tutte le varie situazioni, su due fronti: un fronte reattivo, che era quello di ricevere le chiamate su ciò che poteva essere il problema contingente, e su un fronte proattivo, che era quello di anticipare eventuali problemi attraverso le videocamere piuttosto che i sistemi di telecontrollo, e quindi riuscire a indirizzare tutte le forze sul campo verso un contenimento e o una soluzione il più immediata e rapida possibile. Banalmente, si sta formando una coda molto lunga, come facciamo, no? Esattamente. E poi c'era il tema appunto della manutenzione. Pensiamo anche solo a tenere puliti i bagni lì dentro, che razza di casino deve essere stato. Beh, devo dire, la chiave di tutto questo però era la semplicità, ovviamente. Noi dal campo avevamo le forze che ci segnalavano le situazioni e abbiamo cercato di codificare tutto quanto in una logica di semplificazione sia di processo che di relazioni. Il problema era riuscire a dispacciare il tutto alla persona giusta nel minor tempo possibile. Ecco, come avete fatto? Partiamo dalla raccolta appunto dei dati e poi vediamo come anche avete gestito la parte di reazione. Ma diciamo così che la parte tecnologica era abbastanza facile, c'erano i sistemi di telecontrollo, quindi c'era un tema di presidio e tutto questo era anche meno, tra virgolette, visibile ai visitatori. Ciò che era più difficile era la parte analogica della città, appunto i cestini, i tombini, le strade, le luci. Per tutto questo abbiamo codificato circa 300 situazioni in anticipo e abbiamo fatto sì che gli operatori che stavano sul campo potessero in maniera semplice, rapida e veloce dirci cosa stava succedendo. Ecco, perché avete codificato? Faccio anche un esempio, magari. Ma faccio un esempio: noi abbiamo definito un albero delle segnalazioni identificando gli ambiti di riferimento che ci permettevano di dare rapidamente il tema, tipo le aree del verde sostanzialmente, okay, piuttosto che la manutenzione stradale. Tutto questo poi si declinava in un oggetto che poteva essere un albero per quanto riguarda il verde, un prato, eccetera, e poi la situazione, che voleva dire caduto, per esempio, tagliare l'erba sì, da sfalciare. Questo permetteva di identificare immediatamente qual era la situazione e quindi il processo che ingaggiava il referente per andare a intervenire e risolvere la situazione. Ecco, perché siamo arrivati alla seconda regola aurea, diciamo, che è la semplicità organizzativa e la certezza, forse ancor più organizzativa. Assolutamente, la semplicità organizzativa permette, su cui noi ci siamo poi basati, abbiamo fatto leva, permette sostanzialmente due cose. Uno, la difficoltà interpretativa delle cose, quindi la semplicità e l'attribuzione. Due, l'assunzione di responsabilità. La cosa importante era, una volta dispacciata correttamente la situazione e il problema da risolvere, essere certi che chi era il destinatario se ne facesse carico. Ecco, e quindi qui come funzionava la cosa? Ma qui la cosa era abbastanza semplice, il workflow, come dicono gli tecnici di processo, esatto, quelli che capiscono, prevedeva sostanzialmente che la segnalazione arrivasse in uno stato aperto, noi la dovevamo assegnare e quindi qui misuravamo la nostra capacità di dispacciare rapidamente, e il fornitore, il destinatario della segnalazione, che la poteva ricevere via mail o accedendo direttamente al sistema, aveva l'obbligo di rifiutarla o di prenderla in carico. A questo punto la parte più grossa del gioco era fatta. Cioè non poteva accadere che quella segnalazione rimanesse lì in evasa. Assolutamente, abbiamo affrontato più volte anche la questione se i livelli di servizio si misurassero sulla risoluzione dei problemi piuttosto che non sulla presa in carico. Expo aveva due città, una di giorno con i visitatori e una di notte per i rifornimenti e tutte le sistemazioni. Le faccio un esempio, un palo della luce che veniva urtato da un mezzo di notte. Sì. E ce ne accorgevamo di giorno perché poi l'autista se ne andava, non può essere riparato di giorno con 200.000 visitatori, perché non possiamo entrare con una gru in una situazione di questo tipo. Quindi la cosa importante era essere certi che la situazione fosse chiara e attribuita al responsabile. L'intervento andava programmato a seconda del contesto. Grazie Luigi Osmetti. A voi, buonasera. Anche per questa sera abbiamo concluso, ci diamo appuntamento a domani.